Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta. Ehi, presente, ma sta sempre a presentare, ma che cacchio si presenta? Ma che ne so, ma lascia fallo di mastica. Gente, stiamo calmi, fatemi fare. Ehi ragazzi, un po' di calma, fatelo fare. Ah, Puccio, vieni qua, dai, che stavamo a fermare, dai. OGM. Oddio, e mo come lo chiamiamo quest'anno? Signora, ma lei l'ascolta OGM? Oggi che? Ma che? Me. Oggi me? No. No. Signora! C'ho le roba fresca, ciccia fresca, sì. A ciccia, come quella che tiene in due puzzette. E allora non mi volete proprio far lavorare? Questa non è OGM come la conoscete voi. Ma che? Ma no? Ma che? Ah? Calla, guardavo a finire. Ah? No. Questa è OGM Soch Media Edition. Ma Soch, ma che è stata stronzata, no? Soci che? OGM Soch Media Edition. Va bene, altra cazzata. No, idioti, e basta con tutto sto casino. La gente qua deve dormire, che si deve svegliare presto per andare a vedere i cantieri. Ma non potete fare come tutti i ragazzi una volta che si drogano. No, devono mettere a fare radio il casino. E basta, no, basta. Cari amici del Natale, della gente che si ama con la fraternanza, con la neve che cade dal cielo e gli alberi che si illuminano di luci cinesi, benvenuti a OGM Soch Media Edition. Com'è? Qui? Proprio qua, proprio seduto di fronte a me, Marco Gualdi. Ma chi me lo ha fatto fare? Fa freddo, la temperatura è scesa sotto i 10 gradi. Questa mattina facevano 3 gradi. 3 gradi. 3 grani anche, no, un pochino. Non staremmo mai a casa nostra a giocare al PC, le nostre meglio cose, no. Stiamo qua. Beh, ce vai, mo ritorni, dopo un'oretta e mezza, ritorni. Poi devo riaffrontare il freddo. Capirai, sono 10 metri. Walter Sbano! Che nella sua casetta sta proprio con corpile sulle spalle come nonna. Come nonna, bello, no, come nonno, No, come nonna. Nonna, ma c'ha pure nonna va a caccia. Un po' la gobba? Anche. E calla, pure la tosse c'ha nonna. Un pochetto, no, perché c'avevo un tintigherello, c'avevo. Reduce dall'assenza precedente, Carmine, anche detto il Puccio, della famiglia Console. Si è ripreso, devo dire. Tu hai preso una cinepresa, l'hai messa di fronte a te e ti sei ripreso. No, non esattamente di fronte, diciamo. Ne ho prese due. E una te la sei magnata. Esatto, esatto, lì cosa importante. Però, insomma, Francesco Di Muro questa sera non c'è. Ma come al solito, quando potrebbe arrivare. Quando non c'è Francesco, non è che siamo. Non abbiamo il diritto di saperlo. Non importa, insomma, quindi faremo senza di lui, ma sicuramente poi a un certo punto sbucherà e ci dirà cose bellissime sui complottari. Prima di iniziare, vi dico che venerdì non inizierà la prima puntata del mio nuovo programma, perché praticamente il buon Vargion stamattina non si è svegliato e allora ha detto: vabbè, dai, replico per il funerale? No, non si è svegliato proprio. No, poi si è svegliato dopo. Ah. Dopo si è svegliato. E niente, praticamente lui mi ha chiesto, insomma, di fare venerdì perché lunedì non si è svegliato. E vabbè, per me non c'è problema, posso rinviare anche da una settimana. Anche meglio tardi che mai in questi casi. Meglio svegliarsi tardi che mai. Poi vi ricordo che giovedì sera ci sarà la puntata di, insomma, Quando eravamo futuro, lo dico subito che siete ancora attenti perché dopo vi stufate, dedicata a Giochi senza frontiere, ragazzi, momenti, grandi molto emozioni. Figo, molto figo, tanta infanzia. Invece qui presente Walter, martedì, mercoledì e giovedì sera alle 20 con Le orazioni della sera, ci farà compagnia biastimando contro i fascisti. Così. Contro le solite cose, cosa c'è rimasto nella vita? Tra l'altro, diciamo che per fare proprio un accenno politico, alla fine tutto questo ambaradam di sti mondiali in Qatar, alla fine piano piano sta cominciando a uscire fuori, no? E poi non solo esce fuori insomma da quelli che meno te aspetti. Quindi, insomma, grosso colpo al Partito Socialista Europeo, insomma, che cercando di portare il buon nome della sinistra popolare e onesta si sono accorciati un sacco dei sordi dentro le valigie, perché insomma, le transazioni e Poggiolini, non so se ve lo ricordate. Esatto, perché poi diciamo che oggi le transazioni sarebbero un po' sospette, no? Cioè, dice, potrebbe attirare l'attenzione, che ne so, una transazione, un bonifico di 400.000 euro sul conto di Tizio Caio. Ma adesso è possibile andare con le valigie di 4.000 euro ciascuno, esatto. 4.999 euro, e quindi, poi spostare con un po' di pazienza riesce a fare. Quindi questi sono arrivati con 25 valigie. Ah, raga, il discorso che voi non capite, tutto questo è nato da un equivoco, perché per lo sceicco medio 750.000 euro sono la mancia per il parcheggiatore della macchina. E infatti il Qatar giustamente ha detto: no, non c'entriamo niente, cioè, perché quelli per noi, quelli sono stati gentili e noi abbiamo dato la mancia, quello loro dicono. Capito, cioè proprio sono spicci. Dice, perché sono in tutto in banconote nelle valigie? Perché sono spicci. Quello che non avevano tenuto in considerazione è che 400 valigie non passano inosservate, diciamo che erano quasi meglio il bonifico a quel punto, no? Cioè, nel senso... Attenzione, io vi dico, in verità vi dico che adesso arriva anche Francesco. Attenzione, cioè questa rivelazione quasi mistica. No, mastica pure un po', mastica la mistica. Più mastica. Io non so se vedo delle ditine che interagiscono sulla chat e quindi oh, ecco Francesco Di Muro. Sì, ma scusate il ritardo, un'istituzionalità. Stavo convincendo un bot a investire in valute reali. Ok. Vabbè, allora comprati le dracme greche, caro bot. Che quelle dice che esistono ancora poi, In che senso? No, nel senso che non esistono più, cioè c'è l'euro. Okay, le dracule non esistono. Draculò. Vabbè, ragazzi, partiamo da Walter, va, che io intanto mi sono dimenticato di mettere il nome nello streaming. Ragazzi, che fatica, perché sapete, il problema di Twitter è che è il social media preferito dai politici, soprattutto gli italiani, ma in realtà un po' di tutto il mondo, solo che quelli italiani sono particolarmente cialtroni e quindi mi tocca 9 volte su 10 mostrarvi cose fatte e dette dai politici. So che questa cosa vi dispiace tanto, che vi piacerebbe più l'uomo della strada che spara cazzate come su Quora, come su altri social, invece a me... Ma alla fine risulta essere uguale, cioè il tenore. Sì. Beh. Allora, ne ho raccolti diversi. Cominciamo con Matteuccio Salvini, perché oggi ne ha inanellate due bellissime. La prima delle due, lui da ministro delle infrastrutture critica le cause di un incidente stradale dicendo l'educazione... Scusa, salutiamo Girasole, ciao Girasole. Ciao curcuma sul viso e non mi ricordo... Scusa Walter, però purtroppo è come quando il telecronista di tutto il calcio minuto per minuto parlava e arriva scusa Mary, capito? Cioè, ma la cosa divertente è che l'avevo salutata io, non ve ne siete neanche accorti. No, non sono accorti. Hai ragione, non me ne sono accorto, scusa. Perché non... No, perché io stavo a smanettare con lo streaming. Tanto era distratto, era giustificabile. No, arrivi al filo del discorso. No, dicevo che Salvini nella delle due spettacolari. Una delle due riguarda il suo ruolo anche istituzionale, perché ministro delle infrastrutture, qualcosa anche di codice della strada dovrebbe saperla. E, se l'è presa a causa di un incidente in cui sono morti dei ragazzi. Dice: l'educazione stradale non serve a niente se poi si va in 7 in macchina, solo che la macchina con cui hanno fatto l'incidente era omologata per 7 e quindi Va bene, ma questa la mettiamo da parte. Questa, cioè, ci può anche stare. No, io, aspetta, io c'ho subito. No, io c'ho subito. Macchine omologate per 7, magari. Ma io ci posso anche. Sai che tu non lo sai, la macchina omologata per 7. Però oggettivamente, no, una macchina, cioè, se sono entrate 7 persone, vuol dire che ci stanno dentro, no? Che differenza fa se sono 7 o se sono 5? Cioè, non è mica un motorino che si sbilancia. Aspetta, era comunque una cazzata, aspetta. Perché voglio dire, era, fa poi sensazionalismo per evitare gli incidenti stradali. Poi, che altro mezzo hai se non, cioè, se tu, tentare di educare? Cioè, se tu stai in una macchina omologata per 4 posti e ci sali in 7 perché te ce poi mette, perché volendo te ce poi mette male, e poi fare un incidente, ovviamente magari potrebbe esserci qualche problema. Ma lì, aprendo diciamo la parentesi, allargando un po' il discorso, se voi avete visto Pizzi, no, perché non li guarda più, qualche telegiornale, no, sensazionalisticamente, no, sensazionalisticamente quasi tutti hanno aperto "viaggiavano in 7" come se fosse una cosa, cioè che stessero facendo qualcosa contro. Ma lo sai perché? Perché oramai il giornalismo, che non esiste più, cioè non è che dice vai, verifica che cosa è successo, dove è successo, in che modo è successo, leggono da una parte, lo riportano, semplice, non è che, capito? Cioè, Salvini ha fatto la stessa cosa, vabbè, però il problema è che Salvini è, come dice giustamente Walter, infatti lui è ministro delle infrastrutture, non delle macchine, dovrebbe... giustamente, mica io, che so, ministro, no, è ministro delle infra e delle strutture, casa mia guardo solo le infrastrutture, essere... non le macchine, ministro infra e degli infradito al papete. Quello, esatto. Però, quello è passato, però, ammazza che battuta, ragazzi. Però ragazzi, comunque che questa batta. Era soltanto stare bene, perché bella. Non è di questo che vi volevo raccontare, del nostro stimatissimo ministro Salvini. La cosa divertente invece è che se l'è presa con la serie TV The Bad Guy. Ah sì, per il ponte di Messina? Per il ponte sullo stretto di Messina. Geniale, no, che sto fatto, fantastico di... Racconta, voglio anche sapere. Anche se c'è, allora, un mega spoiler, però il tweet in chat, perché Salvini ha detto: in una nuova serie TV di Amazon, ennesimo stereotipo di pessimo gusto sull'Italia e sul popolo siciliano. Dopo la sua realizzazione, il ponte sullo stretto crolla perché la costruzione era stata affidata ad aziende legate ai clan mafiosi. Non possiamo più accogliere in silenzio insulti e offese al nostro paese. L'Italia da sempre crea capolavori ingegneristici dentro e fuori dai confini. Il ponte sarà l'ennesimo esempio di genialità italiana nel mondo. Volere e potere. Ora, uno, la serie TV è italiana, quindi non ci hanno preso per il culo, ci siamo presi per il culo al limite. Due, ovviamente qualcuno gli ha fatto notare, dice: ma nella serie, che ovviamente è immaginaria, c'è il ponte, nella realtà il ponte non c'è e tu ti stai lamentando che in un'opera di fantasia fanno crollare un ponte che in realtà non esiste? Dice: io esco pazzo. No, ma poi il bello è che dà anche la giustificazione lui, cioè che è stato dato questo lavoro a ditte, a malaffare, alle cose, che non viene citata assolutamente questa cosa. No, poi io non lo so, perché a meno che lui non conosca già come va a finire, perché devono ancora uscire le ultime puntate, allora magari lui già sa. Spoiler, René, questo è spoiler. Comunque è uno spoiler, perché lui ha spoilerato un evento spoiler importante dalla prima puntata, cioè. No, ma poi gli fanno notare varie cose, i commenti non lo hanno risparmiato, ovviamente, come sempre. C'è chi gli dice: beh, come se queste cose in Italia non succedessero mai, perché poi alla fine, se ci pensate, no? Il classico, lui ha tentato, anche Olivia si domanda: ma dove lo dicono che le ditte sono mafiose? Probabilmente non lo dicono, fatto infatti sta, non lo dico. Insomma, che... cioè, la cosa bella è che lui dà per scontato questa cosa, quindi agisce per luogo comune, capito? Cioè, quella, certo, è la cosa. Ripeto, nessuno dice un cazzo. Ha detto, ragazzi, molto più di se stesso, infatti, che della serie. Il suo intento era fare come al solito nazionalismo, cercando di difendere l'Italia dalle offese di una serie televisiva straniera, che straniera non è, però, e quello è il grosso problema. Sì, secondo me c'è anche un elemento maggiore, aggiungici il fatto che lui la serie non l'ha vista e gliel'hanno riferito così, e sì, allora lui sicuramente l'ha postato senza sapere neanche di che cazzo sta a parlare. Perché? Perché lui voleva far ministro degli interni e non gliel'hanno fatto fare, e quindi adesso si sente un po' messo in disparte, capisci? Cioè, sta lì, dice: e io devo dire qualcosa, fatemi dire qualcosa, capito? Devo fare. Poi tra l'altro c'è il problema nel problema, che secondo moltissimi ingegneri, molti esperti, quindi non noi poveri stronzi, si, il fatto che l'opera, che il ponte sia effettivamente realizzabile in sicurezza è abbastanza opinabile, quindi potrebbe pure finire davvero così, che fa il ponte sullo stretto e quello te crolla, eh? Come del resto sono crollati anche altri ponti, viadotti eccetera, a causa della, dell'incuria, della mancanza di manutenzione, e che non erano costruiti su una faglia divergente. Lo salutano, lo salutano da Genova al buon Salvini, gli dicono, esatto, ah, ciao, quindi, ciao. Insomma, fossi in lui eviterei di inerpicarmi in queste difese, perché poi voglio dire, il tempo è galantuomo, ma non vorremmo mai, poi sappiamo tutti che il ponte sullo stretto materialmente non lo vedremo mai. Però, pensate, insomma, che bello fa di vedere il trailer, quello di Boris di Sottaceto, dove si vedeva il ponte sullo stretto fatto con gli adesivi. Esatto. E giustamente però Girasole ci dice che siccome lui è ministro delle infrastrutture si preoccupa anche di quelle ipotetiche di opere, no? Quelle di fantasia, però appunto non sa che ci sono macchine omologate per più di 5 passeggeri. Vabbè ragazzi, abbiamo iniziato. No, ma è sempre interessante vedere come, cioè, come un uomo riesce. Il problema è che lui sa che la parte in cui lui fa la figura del merda ha le persone alle quali lui parla completamente sommersa sta cosa, perché chi cazzo gli legge i commenti, capito? Cioè, nel senso, poi oggettivamente non lo so, veramente io penso che quest'uomo ci è accampato su sta roba, è inutile sta discutere, insomma. Comunque vabbè, dai. E, ma ci sono altri politici che ci hanno, perché per esempio io ho visto che Calenda ultimamente sta un po' più cheto rispetto Calenda, ma tu non lo sai, Calenda sta oggi ha superato il confine, sta in Ucraina. Ah sì? E che c'è andato a fare? È il coglione, cioè, che cosa è andato a fare? È andato a portare testimonianza, che ti devo dire, però sta lì, ha twittato proprio al confine, ma dopo non mi sono aggiornato, insomma. Ciao, sono Calenda e porto testimonianze. Ma secondo te ci sta per davvero, oppure sta al confine, prima del confine? No, ha varcato il confine. Aspetta, si trova in Ucraina, ma presumo in una zona, c'è una buona parte sicura, infatti, mica scemo, che è abbastanza tra virgolette io lo immagino sicuro. Tipo sempre come Homer Simpson alla come si chiama, all'ambasciata tra Stati Uniti e due cazzo stati, diciamo. USA e l'altro paese, non ricordo. Sì. Che salteva che poi lo sapete che c'era quella famosa scena di Trump con Kinky Duke là, come cazzo si chiama, Kim Jong-un là, come mai capito come Kim cazzo Jong-un. Si che praticamente c'è sto pezzo, praticamente c'è sta specie di marciapiede che questa è la Corea del Sud, questa è la Corea del Nord, e quindi hanno fatto sto passo verso la Corea del Sud quella volta con quella scena, tra l'altro, che non c'era nessun senso, anche perché poi dopo, il giorno dopo, era tutto come prima, non è che è cambiato niente. Anzi, tra l'altro, la cosa bella, mi ricordo chi è che fece il ridoppiaggio, mi pare Gio Pizzi fece il ridoppiaggio, e tipo quando passavano dalla parte della Corea del Nord, Kim Jong-un diceva io bombarde, diventava cattiva, poi appena ritornava prima ritornava buono. Fantastico. Invece vi volevo dire, dato che parliamo di campionati del mondo, cioè nel senso, ne parliamo, noi di solito non ne parliamo, innanzitutto, come insomma dicevamo, che avremmo cercato la squadra che ci avrebbe fatto simpatia a questi campionati del mondo di calcio, e l'abbiamo trovata, anche se ci avevo delle parvenze, perché alla fine il Marocco non soltanto per la prima volta nella sua storia è entrata nelle semifinali del campione del mondo, ma è praticamente la prima squadra africana ad arrivare alle semifinali del campione del mondo, battendo tra l'altro, insomma, niente popò di meno che il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che devo dire nella sua vita ha guadagnato un fracchiglione di miliardi, continuerà a guadagnarli perché pare che gli hanno fatto una specie di contratto in un paese arabo da qualche cazzo di parte. Ma la cosa bella è che questo è l'anno peggiore della sua vita, tutto sommato, perché sappia, schiaffi dappertutto, non lo fanno giocare da nessuna parte, neanche in nazionale gioca. È uscito sto nuovo attaccante del Portogallo che pare che stia rubando, insomma, un po' la scena, diciamo così. Vabbè, ma ruba la scena, dai, Ronaldo era sportivamente, agonisticamente, già alla fine, già quando era nella Juventus. Lo so, però capisci, cioè, nel senso, ci sono certe cose che sono talmente ingombranti anche da morte, no? Ok. Io credo che il termine tecnico sia tecnicamente agonizzante. No, in realtà lui fisicamente è ancora in ottime condizioni, però c'ha 37 anni, cioè, per quanto sia. Ecco, insomma, alla fine sto cazzo de Marocco è arrivato in semifinale e in tutta Italia ci sono stati un sacco dei festeggiamenti e noi italiani li abbiamo accolti sempre con grande gioia, no? E si vede su tutti i social, tanti film, tanti video, tanti reel, tanti shorts anche su YouTube, dove questi marocchini festeggiano lasciati liberamente in pace dagli italiani che non gli dicono niente assolutamente, tipo accoltellati, botte, molotov, cose, perché noi non siamo capaci a essere un popolo civile, diciamo, cioè, che hanno fatto anche un pochino dei casini, hanno fatto casini come facevamo i casini noi quando arrivavamo in semifinale mondiale. Addirittura in alcune città tipo a Genova, la Spezia, hanno ripulito, cioè hanno fatto prima feste in piazza e poi hanno ripulito. Sì, comunque ragazzi, se per caso il Marocco batte la Francia, allora ci sarebbe un karma storico tutto sommato, perché vabbè, non voglio entrare in questo tipo di discorso perché sarebbe un po' lungo e complesso, no? Perché alla fine la Francia, cioè la nazione francese, è l'80% non sono francesi, cioè è tutta gente dei... È un'affermazione razzista. È tutta gente dei colonie, cioè nel senso non è che ci stanno... E quindi praticamente alla fine questa presenza del Marocco in semifinale comunque in qualche maniera è un'affermazione da parte di quei giocatori africani che decidono di rimanere nelle loro nazionali piuttosto che... Che diventare dei ricchi per te. Esatto, per diventare dei maledetti ricchi e roba del genere. E invece in occasione dei campionati del mondo ci sta anche il campionato del mondo del Royal Match, che è una bellissima applicazione su Android e su poco anche iOS, dove io sono 30 o 39 millesimo nel campionato del mondo e insomma mi sto difendendo, faccio, ecco, quindi fate il tifo per me. Match. Ma lo scopo di questo gioco qual è? Il gioco è sempre il solito gioco delle palline, no? Che giri, fai accoppi, fai scoppia le cose. Distruggi gli scenari, diciamo una versione un po' più sofisticata di Candy Crush, un po' più sofisticata del tifoso medio che va a spaccare, esatto, le città, esatto, fare le palle, rompe, però c'è un motivo d'orgoglio, perché per ora, perché dato che è ancora in corso questo campione del mondo, al terzo posto c'è un italiano che non sono io, veramente, quindi immaginate quanti migliaia, è un certo Pimone Sizzi, esatto, quanti centinaia di migliaia, se non forse anche di più, di persone che non c'è un cazzo da fare, stanno tutte su Royal Match in questo momento a giocare, compreso me, che chiaramente mentre che voi parlate io sto giocando, insomma. No, lo fa per il suo bene ovviamente, perché deve vincere. Dai, devo arrivare almeno al 38 millesimo, diciamo che se arrivo intorno ai 15.000 sarei contento. Non esageriamo, dai. Va buono, Puccio. Oh, allora ragazzi, io oggi vorrei fare un episodio crossover, no? Avete presente tipo Manny Unpiai versus la signora in giallo? No, però vabbè. Poi no, c'è un episodio di Manny Unpiai in cui si incontra con la signora in giallo. E non muore qualcuno, ovviamente. Sì. No, muoiono il doppio, perché muoiono per Manny Unpiai e muoiono per la signora in giallo. Del resto, se Lupin ha incontrato Lady Oscar, tutto è possibile. Vabbè, era una discendente. Vabbè, comunque. No, in realtà c'è un episodio di Manny Unpiai in cui Jessica Fletcher va alle Hawaii e quindi muoiono tantissime persone, è un episodio in cui Magnum la raggiunge a Cabot Cove. Sono delle minchiate terrificanti, però sono divertenti da vedere, fa questo effetto straniante. Allora, oggi si usava però negli anni 80, sì, cose. Era rarissimamente, ma qualche volta succedeva, sì, tipo Mr. T che andava a trovare Arnold, cioè no, io ricordo quella più epocale, che era appunto Arnold mischiato con Supercar, per cui mi fermo lì. Dove Arnold muore, no, non muore purtroppo, sì, ma rischi di morire e viene salvato da Kit, ricordiamocelo, perché Kit è vero, che poi quella non solo era una puntata crossover, ma era anche una puntata crossover che rompe la quinta parete, perché praticamente loro stavano girando la quinta parete, perché loro stavano girando un episodio di Supercar, però Supercar non era finta, però era come se fosse un attore di se stesso, e a un certo punto durante le riprese si rende conto che Arnold stava a morire, una cosa del genere, giusto? Durante le riprese a marcia indietro Kit prende Arnold e dice Kit è morto, esatto. Arnold, cazzo, vabbè, cioè, non l'ho visto perché è più basso del parafango, no, stavo stava in realtà stava nascosto dentro un cofano di una macchina, e quindi no, il cofano, il portabagagli di una macchina, e quindi sarebbe esploso perché la macchina doveva esplodere, quindi povero povero nanino. La verità qual è? Che Gary Coleman faceva lo stuntman, lo stunt driver che guidava supercar nelle scene in cui non c'era il pilota, che non so se lo sapete come erano fatte. In realtà c'era, non c'aveva dei sofisticati servocomandi o altro, c'era il servo e basta, anteriore posticcio, e dietro il sedile che avvolgeva lo stunt driver, c'era lo stunt driver che dal sedile posteriore guidava. Beh, ma questo penso che era, ti ricordi Lancelotto 008? Ah, sì, la formula segreta della torta del biscotto, che praticamente era questa serie televisiva totalmente recitata da scimpanzé, e quando ovviamente questi scimpanzé guidavano, ci doveva essere qualcuno che guidava al posto loro. Ma io penso che fosse tutto quanto in green screen, non reso proiezione. Ma quale green screen? Il green screen costa, negli anni 80 il green screen costava, Gualdi, che dici? Cioè, c'era il chroma key, c'era anche la retroproiezione, comunque si vedevano che comunque erano fatte a cazzo, non credo che li mettessero davvero sulle macchine, anche perché poi impazzivano. Probabilmente erano telecomandate. Vai Buccio, torniamo a Jessica Fletcher, che è appena arrivata alle Hawaii, tutto quanto l'aeroporto sono tutti con le mani in tasca, naturalmente. Allora dicevo, allora abbiamo, ragazzi, oggi un episodio crossover, perché che succede? Mentre scartabellavo su Quora trovo una domanda a cui non riesco a dare una spiegazione. Un ragazzo chiede: potreste spiegarmi chi è la, tra virgolette, famiglia dei pazzi? Beh, la prima cosa che mi è venuta in testa è stata: vabbè, sarà qualcuno che è interessato di storia fiorentina e vuole parlare della congiura dei pazzi. Eh no, perché avrebbe detto la famiglia dei pazzi, che è diverso. Ma magari qualcuno prova a chiedergli se l'oggetto della domanda fosse quello, e lui risponde: no, parliamo di quelli di TikTok. Sospetto. Guarda tu il caso, per le coincidenze, mentre scartabello Twitter, un utente che seguo molto, che poi gli metto il link in chat, scatena un lunghissimo thread su Twitter parlando di questo fenomeno di TikTok. Che cosa è successo? Due famiglie di Napoli, famose per partecipare molto a competizioni social e per essere composte prevalentemente da cantanti neomelodici, hanno sviluppato uno psicodramma terrificante, ma una roba tipo veramente telenovela brasiliana. E cosa succede? Queste due famiglie, con ognuna con tipo 5 figli a testa, tutti giovanissimi. Come minimo. Tutti detentori di reddito di cittadinanza, ovviamente. Perché... No, tutti quanti cantanti che si esibiscono a matrimoni, feste, comunioni, queste robe del genere. Ma non per scelta, per obbligo. Cioè, no, tu li devi far venire, assolutamente. I figli più grandi di queste due famiglie, che da questa, dalla ragazza che mi ha fatto scoprire la storia, vengono soprannominati Checco con 3K e Carmela con 2M, improvvisamente scoppia l'amore, si fidanzano, si lasciano, si prendono, solite storie. Tutta questa roba viene raccontata dalle rispettive famiglie tramite i video su TikTok, che sono veramente dei capolavori di tresciume inenarrabili. Adesso io li devo andare a cercare, come si chiamano questi? No, ma ti do i link, mi sono fatto la bibliografia completa. Che cosa succede? A un certo punto questi due ragazzi si lasciano, ma colpo di scena, lei è incinta. Segue video di TikTok con canzone neomelodica napoletana di lei che fa la prima ecografia. In questo video il padre è completamente assente, tutti pensano che non sia andato perché si sono lasciati, ma colpo di scena, lui in realtà c'era e accusa la ex suocera e la ex fidanzata di averlo tagliato dal video per farlo figurare già dall'inizio come padre assente. Le cose pian piano precipitano. Cosa io credo benissimo, perché io non ho visto delle cose del genere. Figurati, io con un padre ginecologo quando li ho sentiti. Andiamo avanti. Ah, pensavo quante ne ho viste. No, quello è lui al massimo. Vedi, hai messo a disagio Buccio. No, stavo per fare una battuta bruttissima, ragazzi. Sei fermato in tempo. No, perché vabbè, una volta un amico ha detto: tu sei l'unica persona che conosco che può andare dal figlio di Rocco Siffredi e dire: mio padre ne ha viste più del tuo. E non lo so, comunque neanche io sarei molto sicuro, tutto sommato. Sorvoliamo prima che mio padre mi disereda. andiamo avanti, diciamo, gli eventi si susseguono vorticosamente tra accuse reciproche tra le varie famiglie, tra cui quello dell'ex suocera a questo ragazzo Checco con 3K di averci provato pure con lei, oltre che con la figlia. La tragedia però non si consuma tanto su TikTok quanto su una rete locale napoletana di cui ignoro il nome, ma in una trasmissione condotta da tale Francesco Bambolina, diciamo tipo non molto mascolino negli atteggiamenti, la tragedia si è consumata perché ha invitato tutte e due le famiglie, però collegate ognuna da casa loro. Ne è seguita una colluttazione in cui credo che neanche i sottotitoli automatici di Google ti potevano aiutare più di tanto. Cioè, una roba veramente terrificante, che si è conclusa con lo svenimento non di un membro delle due famiglie, ma del presentatore. Io ero lì che guardavo questa cosa, cioè, David Lynch, queste cose così, non capivo esattamente se stavo vedendo una rappresentazione cinematografica molto ricercata o un capolavoro del trash. Ma ero lì che guardavo, ora rimetto tutti i link. In questo momento la storia sta andando avanti, io la sto seguendo su TikTok perché ormai mi sono innamorato, voglio sapere come va a finire, perché a me è così che mi fregano, io voglio sapere come finiscono le cose, e queste non finiranno mai poi, ovviamente. Ricordiamo che Puccio, credo che ora dovrebbero scoprire il sesso del nascituro. Ricordiamo che Puccio, il Puccio è l'unico essere vivente al mondo che guarda i film porno fino alla fine, ben sapendo che poi il finale è sempre lo stesso. Insomma. Sì, si sposano. Non sempre lo stesso, non sempre. No, io perché sono ottimista, spero si sposino alla fine. Quindi tu vorresti che sbocciasse l'amore? Non essere ottimista. Pizzi, quando hai detto ho avuto un terrore, c'è un brivido dietro la schiena, ti prego. No, io volevo dire, quindi tu speri che si... Non so, speri. La storia continui ancora a lungo. Cioè tu vorresti che loro si amassero comunque, cioè tu segui questa cosa con... No, lei c'ha 17 anni, lui 18, io spero che non si insaviscano più che altro. Quello la vedo difficile. Ormai sono bruciati per sempre. Una domanda, siamo sicuri che non è come i sogni d'amore che poi un giorno ci racconteranno che la telenovela piemontese più famosa del mondo non esisteva veramente, no? Ma in realtà quella è una cosa ancora più complicata, perché in realtà non sarebbe dovuta esistere, l'hanno costruita perché aveva avuto successo su MyTele TV. Sì, questa cosa la dice pure Carlo Sant'Agostino, quindi ci deve essere un fondo di verità in merito a tutto questo. Io non ho mai, in realtà non ho mai indagato, non mi è mai interessato di la verità, però insomma... Sentite, io la prima volta sta storia l'ho sentita da una persona che purtroppo non c'è più, vi ricordate Lorenz che stava sempre, sì, al... Ok. Lorenz d'Arabia. Quello che faceva il cantante romagnolo, io l'ho conosciuto quando vivevo nelle Marche, era uno spettacolo di vari comici, c'era anche lui, e poi si era fermato con quelli che lo avevano riconosciuto a parlare e gli hanno fatto varie battute sui vari personaggi, ed è stata lì la prima volta che ho sentito sta storia che la telenovela piemontese in realtà gli mandavano gli episodi ma non veniva trasmessa su nessuna rete, quella facevano apposta per loro. Beh, ma comunque può essere quella fatta troppo brutta, raga. Cioè, io devo dire, allora, negli anni successivamente le porcate se ne sono viste, perché secondo me aveva fatto scuola in qualche maniera. Cioè, guarda, sta roba esiste o non esiste, è talmente brutta che non fa uguale. Però ragazzi, YouTube, quindi. Però ragazzi, non lo so, era troppo brutta, cioè. Io credo che non scorderò mai le lezioni di regia di Vito Colomba. Mamma mia, il tuttologo, ve lo siete scordati? Sì, no, ce n'erano ragazzi, ce n'erano. Mamma mia. Vabbè. Francesco, che dicono invece nel multiverso bravo. Francesco, che dicono nel multiverso del Dio nostro Signore Gesù Cristo con le criptovalute? Io stavolta volevo cambiare un po' le carte in tavola, o meglio volevo rendere la cosa più interattiva, però c'è sta sempre un problema che non c'è un cazzo di nessuno che ci segue, e chi ci segue adesso fa cagare, fa schifo, gente brutta. No, così può darsi che si incazzano e scrivano, e qualcuno scrive, ma che cazzo, così sgamiamo se davvero ci stanno a seguire o meno. Comunque, visto che siamo solo noi e visto che finora sono stato più o meno un utente passivo, a meno che era qualcuno che mi contattava, bot che mi contattavano direttamente, eccetera eccetera, voglio diventare un utente più attivo. Per fare questo però mi devo tutelare, dato che di recente Telegram ha dato, ecco, stanno scrivendo, ha funzionato l'esca, vista, vista. Dato che Telegram dà l'opportunità di creare un altro utente, credo con lo stesso numero, lo voglio creare adesso, mi dite che nome dare, mi trovate proprio le foto da mettere, cosa mettere in bio, visto che voglio inserirmi in questi gruppi, però... Allora, aspetta, diciamo... te lo scrivo in privato su Telegram il nome che devi mettere, aspetta, perché sai, dirlo in radio può essere allora, brutto. Allora, gender... No, domanda seria, gender, sesso... È vero. Come vogliamo, vogliamo fare una cosa neutrale che si capisce o non si capisce, o dagli proprio un'impostazione proprio? Intanto poi vi mettete visto che comunque voglio inserirmi sempre in roba dei complottisti e roba, è meglio non essere l'ho scritto binario, l'ho scritto su OGM. Beh, un nome classico è bello così, però cioè, se sgama cioè qualcosa che sia relativamente credibile, nel senso che sia, secondo me è credibile, cioè che ne sai, allora, un americano uomo o donna? No, e vedete, aiutate voi a scegliere come vogliamo fare, uomo donna che non si capisce, non... guarda, no, se, no, no, guarda, no. Se è di nazionalità indiana io gli avrei casa crasta. No, casa crasta io farei puramente italico, quindi paese, scegliamo Italia. Tu stai Italia. Allora io cercare la foto te la rimedio io, perché sono collegato, this person does not exist, e ti creo una foto al volo, però mi serve la sessuale, sua sessuale, perfetto. E dovete di voi, come vogliamo fare, ragazzi, decidete voi del pubblico. Allora, io però devo chiederti... Facciamo un aiuto, un sondaggio. Io ti devo chiedere un aiuto, però se, diciamo, esistono delle statistiche sulla sessualità di chi è complottista, cioè sono più uomini o donne, o c'è un equilibrio totale? Non lo so, però secondo me non c'è, non incide la sessualità. Io dico uomo. Uomo. Homme. Sembra un attimo, raga, devo così sistemare. Vabbè, mentre che te la studi, passiamo a Walter. Vai, Walter. Continuate. Allora, intanto Puccio ci ha passato in chat qualcosa che riguarda Twitter, ma è un utente che... aspettate, ora vi do i costi di TikTok. Limita si è lucchettata oggi, credo. Non so per quale motivo, però adesso vedo. Va bene, mentre tu ti organizzi, io passo ad un altro personaggio che, insomma, la nostra televisione non rimpiange, e purtroppo ci è toccato vederla riciclata in politica. Io penso sempre che il padre dalla tomba bestemmia come un sollacchero, perché parliamo di Rita Dalla Chiesa, la quale sapete che adesso è parlamentare, sapete che ha passato una vita a difendere Berlusconi e, insomma, è tutto quello che ruota intorno a Forza Italia. Sempre deve essere contento il padre, no? Appunto, dico, il padre, ricordiamoci, è stato ucciso dalla mafia, in buona sostanza, e non credo che sarebbe contentissimo della vita professionale, della carriera della figlia, ormai ottuagenaria pure lei. Comunque, oggi si è espressa Rita Dalla Chiesa sulla storia di... avete saputo che a Roma, soprattutto in quartierini come Fidene, alle riunioni di condominio ci si va armati e si fanno le stragi, no? Perché ci può stare, no? Ecco, Rita Dalla Chiesa commenta: com'è possibile che uno al quale era stata negata la licenza per detenere una pistola vada al poligono di tiro, ne rubi una mettendola in tasca, esca indisturbato e poi la usi per uccidere tre donne ad una riunione di condominio? Chi lo ha fatto entrare? Ma dove? Nel politico o nella riunione di condominio? Beh, probabilmente lei alle riunioni di condominio dove va dalla chiesa ci sono i metal detector, non lo infatti so. Sì, perché probabilmente chi, sì. Secondo chi l'ha fatto entrare alla riunione di condominio, cioè nel senso chi l'ha fatto... Vabbè, comunque fatto sta che qualcuno, poi lei è finito anche su... Ma lei chi l'ha detto che lui gli avevano ritirato il porto d'armi? No, non gliel'hanno mai dato. Non gliel'hanno ritirato, gli hanno negato il porto d'armi perché era instabile mentalmente. Mi sembra abbastanza palese anche questo, tutto sommato, no? Tra l'altro lo sapete che lui è di Ascrea, del paese del padre di Michela, quindi magari ci deve essere attenzione al gene pazzo, no? Esatto. No, però una, tra le tante persone che le hanno risposto, e poi si è beccato anche quindi la segnalazione su Blastometro, gli risponde tale Vucciria 79, che dice in riferimento: stupisce che lei, anziché presentare un'interrogazione parlamentare, venga qua a esprimere indignazione e porre domande come se noi fossimo il giudice Santi Licheri. E ci sta. C'è un po' di c'è un po' di polemica qua. Ma anche un po' la presa per culo, diciamo, insomma. Beh, certo, se no non staremmo qua. Umorismo. E vi passo ovviamente qui la blastata, perché poi c'è questo, questo gruppo, cioè questo gruppo, questo account su Twitter che si chiama Blastometro, che raccoglie le risposte blast a quelle che sono affermazioni sia di, che possono essere di politici che di persone normali, e le segnala appunto con il suo indicatore di blast, il blastometro, che è un po' una versione un po' più sofisticata del poracciometro, ricordiamo, insomma. Il poracciometro c'è un'altra funzione. Sì, certo, quando il poracciometro va fuori scala, perché secondo me un po' con Salvini, niente, il poracciometro gli dà due botte, insomma. Comunque, vabbè. Ma che blastometro. Vai Walter. Vabbè, questo è quanto, però se volete, visto che questa cosa lascia un po' il tempo che trova, possiamo passare al nostro amico Elon. Allora, prima di Elon, aspetta, sentiamo se Francesco intanto ha concluso l'operazione. Allora, ho appena scoperto che si possono fare account senza SIM, però in blockchain, roba di comprare, quindi no. Quindi praticamente uso già il profilo che non ufficiale, diciamo quello lì privato che uso, e lo riconverto, gli cambio nome e tutto. Solo mi dovete dire genere, che genere volete. Io ho buttato su uomo, Va bene. Quindi? Io mettere un non binario con la foto di donna. No. Sgamano, troppo, deve essere. C'ho anche la foto, attenzione. No, ma no, sei uomo, c'ho la foto. Sei uomo, c'ho la foto. Manda la foto, mi serve pure un nome, Un nome e magari pure qualche altra immagine da mettere, sai, da far scorrere nel profilo. Vabbè, ma quella è una cosa rara, cioè non è che conosco tanta gente con tante immagini nel profilo, insomma. Non è vero che è così rara, se tu che ne conosci, c'è gente che ha 300 foto nel profilo, almeno 3 o 4. Allora, io adesso ti mando tutte le foto. Manda tutte. Però praticamente l'ultima è quella dell'uomo un pochino più attempato, diciamo, un po' più colorato, è quella che secondo me è più adatta. Allora te le mando su, mandami tutto su OGM, te la mando, va bene? Manda tutti, manda. Ok, tutto. Sono, vai, io così le vedono anche gli altri, insomma. Ok, mentre che lui continua in questa operazione, andiamo da Elon Musk. Allora io vi faccio vedere direttamente una screenshot di uno dei suoi tweet giornalieri. Questa è dell'11 dicembre in realtà, quindi di ieri, però insomma ha fatto parlare tanto, visto che si parlava anche di genere. Ed eccoci qua. Il mio pronome è perseguite Fauci, inteso come in tribunale. Fauci, ricordiamoci che l'ex cos'era? Vabbè, un epidemiologo al lavoro. Sì, che aveva un ruolo importante nella gestione. Era il consulente principale, sì, esatto, di Trump. La gestione della pandemia negli Stati Uniti. È quello che si mordeva il labbro e la lingua 20 volte l'ora. È quello che ha impedito a, per esempio, a Trump di farsi di varichina, nel senso io l'avrei lasciato fare, ecco, cose così. No, non era il problema, non era Trump, era gli altri che gli andavano dietro, che poverini, insomma. Vabbè, ma era un sacrificio che saremmo stati disposti a fare, sì, esatto, esattamente. Ovviamente anche lì molti novax e complottisti hanno apprezzato questo suo tweet, perché insomma, come vedete, ha più di 1 milione di mi piace. Però in compenso c'è anche chi gli ha fatto notare, scavando un po', tornando indietro giusto di qualche anno, per esempio, ecco questa che vi ho appena messo in chat, comunicazione sempre legata all'andamento della pandemia. Nel 2020, marzo 2020, tra Elon Musk diceva: basandoci sul trend attuale, probabilmente vicino allo zero, i nuovi casi di Covid negli Stati Uniti potranno tendere allo zero attorno alla fine di aprile. Ecco, quindi insomma aveva un approccio, poi ovviamente smentito, però aveva un approccio leggermente diverso. Io mi domando come fa sta gente a essere arrivata quando è arrivata, boh, forse cioè, ci sono altre ragioni, ma vabbè, comunque. molte ragioni, molte. No, ma guardate, oggi è successa una roba meravigliosa, penso che Davide, come cazzo mi fai? Ciao Davide, salutiamo Davide. Penso che Walter lo sappia perfettamente, diciamo che oggi alcuni account hanno fatto la fine degli oligarchi russi, perché il simpatico Elone è stato a un concerto di David Lafayette. È praticamente stato accolto da boati di disapprovazione ogni volta che ha aperto bocca, e il tipo che aveva registrato i video e li aveva postati su Twitter all'account è misteriosamente scomparso. Sì, c'è da dire che non rosica Elon Musk. So, assolutamente. Se la prende sportivamente, come dice. Sì, sì. No, lui cos'è che ha detto? Che è un difensore oltranzista della libertà di parola. Certo. La propria? Sì, sì, infatti lui permette a tutti di dire la propria e poi cancella, però lui permette lì, cioè, di quello che ti pare, poi io te cancello, cioè, non ha detto che non l'avrebbe fatto, cioè, le due cose possono convivere secondo me. Tu puoi parlare ma affrontarne anche le conseguenze. Esatto, è libertà di parola totale, cioè. Perché ricordati che il pallone è mio. Esatto. Pallone è mio e ci gioco io. Comunque ho scelto la foto, Marco, ho messo non quella forse che volevi che mettessi, perché ho messo quella lì che sembra più adatta in realtà, più a foto a caso di un tizio standard. Ah vabbè, tizio standard, ok. Famoso tizio, sì, standard. Sì, sì. Però da cuore mi fanno una domanda importante, Francesco, e poi torniamo a te. Sei solo e hai un fortissimo dolore al petto, stai per avere un infarto. Hai 10 secondi prima di perdere coscienza. Cosa fai? Guardi. Tossisco. Esatto. Quella era la vecchia. 10 secondi che... avanzano anche 5. Esatto. No, ma sembra che aiuti a non morire. Ah sì? Sì. Interessante. Perché è tipo una specie di piccolo massaggio al cuore. Fai delle convulsioni, ma ce la fai durante l'infarto a fare i tossici? Non so, ci riprovo. Io adesso che mi hai detto questa cosa andrò in giro sempre a fa... Ma che c'ha questo? Tutto a posto, c'è accorto. Ma è un tic. Sto cercando di restare in vita. Sto rimanendo in vita. E no, adesso non ho mai detto questa cosa, non vado via. C'è il tasto unhear, no? Cioè? Mi sembra un po' una leggenda metropolitana, lasciatemelo dire. Poi se volete provare, provate. No, ma prima tutto vi devo tanto tra provare e morire inermi, voglio dire, almeno ci prova, insomma. Vai Francesco. Allora, ho fatto vedere il nome del il tizio. Come lo chiamiamo e che nick gli diamo? Nel frattempo io sto arricchendo di altre immagini da mettergli. Perché andare in ospedale quando puoi tossire? Dai, come lo chiamiamo sto tizio? Però più roba di nickname e poi ce la chiamiamo sopra, perché non credo che poi si metta proprio il nome vero e proprio. Allora, Glauco? Si chiama Glauco? No, Glauco. No, più di nickname. Ah, Nick, vuoi? Ma se vuoi entro tipo in un allora, dei gruppi, il tema del gruppo. Ho capito, però il tema del gruppo è veloci, veloci. Zeta, Iris, Jessia, Paola, beh ci sta Luca. Qual è il tema del gruppo, Francesco? Sempre roba dei complottisti, dei robacce del genere, dai. Dietro le quinte. Ci può stare un pochino più neutrale, ma dietro le quinte, tipo, e ti dico qua si chiamano Roberto 64, Pietro, Rosa Teresa, Germano, però devo vedere pure un pochino. Puoi optare per un Fragolino 86 se vuoi. No, perché Limoncello anche, insomma. Facciamo una crasi di un po' tutti voi, dai. Facciamo tipo Marco PC, che ne so. Olivia suggerisce Eugenio. Eugenio mi piace Eugenio. Io lo sai come lo chiamerei? Clement 71. Che stronzo. Clement 71, io lo farei. Ho capito come. Allora, perché io mi chiamo allora. Vabbè, mentre che Francesco continua a smadonare su sta cosa, vado da Walter, perché sicuramente il nostro amico Pillon, Pillon, Pillon, ne l'avrà detta un'altra. Allora, c'è da dire che oggi Pillon è in lutto perché è stato condannato, ovviamente si rivolgerà alla Corte Europea, però è stato condannato a un risarcimento, mi pare, di 30.000 euro ad un'associazione LGBTQ+, perché ovviamente per le sue classiche dichiarazioni omofobe aveva usato degli appellativi molto poco carini nei confronti di alcuni membri di questa associazione, e un tribunale ha stabilito che deve pagare. Per questo motivo quest'oggi lui ovviamente è in tutt'altre faccende affaccendato, e di conseguenza questa volta il posto di Pillon nella rubrica Pillonle lo prende il suo altrettanto grande amico Mario Adinolfi. Porca puttana. Perché ovviamente posso citare alcune delle sue continue e frequenti esternazioni durante questi mondiali, perché Pillon è uno tutto devoto religioso, pensa solo all'arte. Adinolfi invece è uno più pragmatico, uno più terra terra, guarda le partite del mondiale e commenta. Per esempio, il 10 dicembre diceva: dopo le provocazioni continue dell'Olanda, la terra dell'eutanasia e del primo matrimonio egualitario, della droga libera e delle donne in vetrina, del suicidio di Stato anche a danno dei ragazzi depressi, confesso di aver reagito come gli argentini, il cielo è bianco celeste. Da Lazio, dai, è grande. Albi celeste. Sapevo che avrebbe detto questa cosa nel momento in cui ha detto bianco e poi azzurro. Considerando che l'ha detta ad Inolfi, fossi in te diventerei della Roma come minimo, perché veramente vabbè, trovarsi d'accordo con ad Inolfi anche lo so, però essendo della Lazio sai quanti ne ho dovuti manna giù, allora fa bene pure ad Inolfi. Mamma mia, no, comunque ti ripeto, lui citava il fatto che l'Argentina giù ha battuto l'Olanda al mondiale, non c'era la Lazio di mezzo, c'era gli albi celesti dell'Argentina. Ecco, e ovviamente i vari commenti a questo tweet sono come al solito tranchant, per esempio chi gli chiede scusa di Adinolfi, ma che cazzo c'entra? Oppure un altro che dice giustamente: questo è decisamente il tweet più idota dell'anno, per distacco. E poi vabbè, insomma, tanto tutta no, una serie dire, di siamo al 12 dicembre, secondo me c'ho tempo per scriverne di peggiori. Potrebbe darsi, anche perché ci sono ancora un paio di partite del mondiale. C'è chi gli domanda: ma perché si ostina a inserire parole a caso che non ci azzeccano una beata fava con la partita? Non può candidamente dire: mi stanno sul regala ugello gli olandesi? Sarebbe stata comunque una motivazione stupida, ma almeno non ci avrebbe ammorbato con tutte quelle scemenze. Anche perché appunto, come qualcuno ha notato, non è l'unico pretesto, non è l'unica volta che durante questo mondiale ha usato dei pretesti per usare temi che col calcio non c'entrano niente, quindi tipo il fatto che il Qatar in realtà le donne vivono bene, queste strane affermazioni che venivano fatte anche dalla Rai, che tutto sommato, guarda, io infatti mi sono trovato proprio all'inizio dei mondiali, quando stavano facendo tutta la mega diretta per la cerimonia d'apertura, che alla fine facevano sto raffronto tra il Qatar e l'Iran, no? Che il Qatar alla fine, vabbè, ma tutto sommato, cioè nel senso, in Qatar le donne sono libere di fare quello che vogliono, mica è come in Iran. E certo. Cioè, capito? È sempre politica. Che poi, capito? Collegando dei puntini sparsi, no? Dopo l'evento delle mazzette date dal Qatar ultimamente ai parlamentari europei, ma non lo so, qualche domanda te la sei fatta? Del tipo, quanto potrebbe costare un giornalista, per dire, durante una, diciamo, una partita che dice queste cose? Forse un po' tra di l'altro meno. In Qatar un paio di giornalisti sono anche misteriosamente morti durante i mondiali, eh? Io non vorrei dire, però vabbè, sì, un infarto abbastanza sospetto. Ma sai perché? Perché non hanno fatto e quindi non so, e quindi sono morti perché non sapevano. No. Però in generale, comunque non è un problema del giornalismo il fattore del Qatar, che ovviamente chiaramente poi dopo la Rai ci mette tutto un fattore politico. Oramai c'è questa narrazione totalmente fino occidentale. Almeno una volta c'era un po' di senso critico. Poi magari non è che chi dice la cosa al contrario c'ha ragione, no? Però almeno il principio di avere un contatto testo di contraddittorio, no? Cioè, all'interno anche delle stesse organi di informazione, no, oggi è tutto univoco, no? Il problema è che il Qatar ha pagato fior fior dei politici, funzionari, organizzatori e amministratori per prendersi questi cazzo dei mondiali d'inverno in un paese che col calcio non c'è niente a che fare, e farsi dipingere di un paese democratico, ma loro non gliene frega manco niente, perché secondo loro non ce l'hanno neanche questo concetto, no, dell'essere o non essere democratici. La democrazia loro gli interessa di dimostrarsi moderni, capito? Moderati. Proprio moderni, proprio anche tecnicamente, tecnologicamente. Se tu vedi uno degli stadi che è stato costruito completamente con dei container, e in teoria è stato costruito a livello di impatto zero, perché quando il mondiale sarà finito lo stadio sarà interamente smontato e sarà ci fanno la bidonville dei poveracci lì. No, il problema è quanti miliardi è costato sta cosa, quanti operai sono morti nel frattempo, hai capito? Cioè, però di questo non se ne parlava, pure alla Rai, però dopo tu non mi puoi dire, capito, che quelli sono cattivi e quell'altro sono buoni, perché è ridicola, no, capito, sta cosa. Cioè, la sta cosa è sospetta, perché cioè alla fine se te non ti dicono di dirla sta cosa, ma che cazzo ne parli a fa, cioè non, è una partita, perché devi parlare che loro tutto sommato sono illuminati rispetto, allora, ragazzi, ad altri, cioè, però io vorrei approfittare di questa sponda. È un po' sospetta, insomma. Vorrei approfittare di questa sponda perché oggi è successa questa cosa. Non so se avete presente, vabbè, tutta la questione dei politici vicino al PD che hanno preso queste mazzette al governo europeo, eccetera, dal Qatar. Ecco, oggi un giornalista che di solito quello che scrive non vale nemmeno, diciamo, la pulitura, la pulizia del regal sedere, giornalista del Foglio che si chiama Luciano Capone, oggi ha scritto il tweet di quelli proprio geniali, e quindi tanto di cappello, perché ha scritto testualmente: vedo molti vicini al terzo polo, quindi molti renziani, scatenarsi sulla vicenda del Qatar che coinvolge la sinistra. Al netto dell'aspetto giudiziario, se c'è reato o meno si vedrà, dal punto di vista politico non sarebbe molto diversa da Renzi con l'Arabia Saudita. Soldi a fronte di una buona parola. E ovviamente apriti i cieli, renziani a dargli addosso, che gli rispondono cose del tipo: beh, ma Renzi lo fa il paese loro, mica in Europa, quindi se lo fa il Renzi e lo fa direttamente in Arabia Saudita è tutto lecito, se lo fa un esponente del PD non va bene. E quindi la famosa Annalita di Giorgio, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, dice proprio questo: ma Renzi lo fa il paese loro, mica in Europa. E a quel punto Luciano Capone stesso, F4 basito, le risponde: ah, questo cambia tutto, quindi se domani un politico prendesse legalmente soldi da Putin per andare a parlare bene di lui in Russia non ci sarebbe alcun problema. Quindi, insomma, la situazione sta diventando veramente di un tragico. I renziani, pur di difendere Renzi, riescono proprio a fare due pesi e due misure. Ma poi, tra l'altro, se io non... 300 pesi, 300. Non è che io prendo i soldi da Putin per andare a parlare di Putin bene in Russia. Il problema è quello che noi abbiamo fatto qua. Capito? Cioè, nel senso. No, ma il concetto era che, secondo la difesa, siccome Renzi va a fare gli speech nei paesi arabi, allora lo può fare, non importa se prende soldi per farlo. Se invece avesse preso dei soldi per parlare in Italia di questi paesi arabi, allora non sarebbe stato giusto. Senza poi far notare, e questa è una cosa su cui i renziani sono bravissimi a glissare, che spesso e volentieri negli anni Renzi è andato a farsi i suoi begli speech a pagamento in Arabia Saudita mentre era parlamentare in Italia, e quindi rendendosi assente a quelle che erano le sedute del Parlamento. Quindi così, vabbè, insomma, vabbè, prima di tornare a Francesco, che così ci dice, poi dopo c'è Marco, insomma, che ha sicuramente le sue cose. Volevo dire che forse, ragazzi, qui poi siamo proprio nell'ambito dell'ipotesi, anche se vedo che c'è una lucetta verde, insomma, che forse una sorta di contenzioso con Hotplix che risale al 4 giugno del 2021, quindi, ragazzi, noi stiamo parlando, cioè, devono... no. forse oggi hanno accettato la documentazione che è stata mandata 64 volte, forse, però, perché vedo c'è una cosa verde, però a me ancora non mi hanno comunicato niente, quindi insomma stiamo parlando del 4 giugno, lo voglio dire ancora, no, 4 giugno del 2021, ragazzi, 55 euro in più me ne devono andare ancora 94, quindi insomma, giusto per dire insomma che quando voi pensate che i siti siano fighi quando sono messi in mano alla tecnologia, la tecnologia diventa una cosa devastante quando tu cerchi di parlare con qualcuno e ti rispondono o delle persone sgrammaticate che probabilmente non sono manco italiani, oppure un bot, che il bot giustamente ti risponde con delle frasi precompilate, né? E tu stai lì e bestemmi, non lo posso dire, perché cazzo mi devi dare 150 euro? Cioè, insomma, diciamo che insomma, fa un po' rodere il culo sta cosa, eh? Un pochino, insomma. Però forse, attenzione, forse, non voglio dire niente. Infatti non lo devi fare, fa finta di niente. No, perché se poi questo va tutto a buon fine, noi riapriamo il negozio, giustamente, perché comunque ci sono tanti bei prodotti, ragazzi, eh. Così, ok. Ci avrai altri soldi da farti dare fra 3 anni. Però. No, ma se si sblocca. Allora, lì si è diverse. Allora, sono quelle situazioni dove si è incartato qualcosa per qualche motivo. E a me mi è capitato. Mi è capitato solo una volta nella vita sta cosa con Fastweb. Quelle cose che quando si incarta quella cosa per un motivo che non si capisce, nessuno riesce a venire a capo da sta cosa. Soprattutto quando tu c'hai un'organizzazione con la quale non è facile comunicare, perché è tutto automatizzato in qualche maniera, no? E allora lì, insomma, diventa veramente un po' un problema, no? Tra l'altro è uscita la puntata di Data Nightmare oggi, ascoltatevela, perché... In quel caso devi far partire segnale conoscenze e un attacco DOS per attirare l'attenzione. No, vabbè, oggi avevo preparato la PEC già coordinata, insomma, con il mio avvocato, che se comunque non entro 2 o 3 giorni comunque non mi danno un feedback, chiaramente, cioè, mi tocca... Ma è una questione di principio, non è che... Cioè, nel senso, non è una questione dei soldi, perché poi alla fine. Cioè, però, insomma, tra stare in tasca loro e in tasca mia, che mi aspettano, preferisco che siano in tasca mia, insomma. Vabbè, ho voluto dire a stronzi. Citando il grande Giuseppe Saso, a stronzi. Ecco. Scusa, Scozia, non ti volevo mettere da una. Va bene, vai Francesco, sei riuscito a fare questa opera d'arte? Sì, mi manca solo l'avvio, solo che la cosa bella, ho detto, ho scritto in chat l'avvio e Girasole inizia a pensare che di che nazionalità può essere, dove può provenire, che vita fa, sì, questo. Che è un uomo della campagna marchigiana. Grazie Girasole. Ma tu però, tu sei troppo democratico, vai dritto al punto, scrivi tu cazzate e via. Posso pure non metterla. Comunque manca solo quello. L'ho chiamato Eugenio P, che poi ho deciso Eugenio Paci, che ho visto è molto più diffuso, proprio anche a farla apposta tra le Marche e la Toscana. Quindi vedi, è anche impaziente Girasole, ha detto Francesco hai fatto? Capito? Dice, oh, ti hai capito? Sì. Ma bio significa qualche cioè potrei banalmente mettere, vado per un semplice boia chi molla, che dite? Troppo anche riconoscibile forse. Beh, vabbè, però sti cazzi. Voglio che molla. Guarda, in questi gruppi funziona. Cioè, vedrai che qualcuno gli dirà pure: giusto. No, perché anche tra le immagini che ho messo. Allora, lo faccio vedere un po'. Allora, potete vederlo da OGM. Andate a vedere le immagini. Scorrete le immagini pure che ho messo oltre la foto. Giustamente. Già capito. Aspetta, questa la devo togliere. Ecco qua. Ci ho messo una bella immagine, ma la faccio vedere. Questa e questa, per far capire subito che tipetto è questo qua. Allora, ma dove le stai mettendo queste cose che tu dici che io non vedo? Devi andare su OGM, devi vedere nel mio contatto, quello lì che sto pure su OGM, e scorri le immagini. Eccolo qui, Eugenio P. Sto vedendo i media, però io non so dov'è. Le tocca sulla faccia. La faccia mia, tuo GM. Però vedo le foto tue. Cioè, vedo quello che ti ho mandato. Vabbè, dai, ragazzi, però, stiamo a fare una trasmissione in radio. Quindi o andiamo avanti, procediamo, oppure vediamo se. No, nel caso l'ho messa su dirette, vabbè. Posso, andiamo a vedere subito queste due foto. Ah, bello. Matrix con World, New World. Tipo no, non però c'è, dire, c'è un problema tecnico. Io ti vedo come te su dirette, perché sì, tu m'hai salvato come me, esatto, e quindi mi vedi inevitabilmente come me. Ok, se no invece saresti Eugenio P. Ok, vabbè, poi ti cercherò, insomma. Va bene, quindi con questo farai qualche scorribanda, immagino, insomma. Già posso iniziare adesso. Puoi iniziare adesso. Vai, ma vai Gualdi con le tue recensioni. Andare a dormire. No, non c'ho recensioni. Non hai recensioni, dopo, che però c'hai? Adesso possiamo dopo addirittura. No, dopo un'altra volta anche volendo. Ah, ok. Intanto finiamo tutti quanti i titoli allarmistici, perché l'altro. Ah, è vero, è vero. Anche perché poi sono spunti per altre cose. Titolo allarmistico: meteoriti. Bisogna correre ai ripari. È successo in queste ore. Chissà cosa è successo. Non lo sapremo mai, perché. Beh, però io mi ricordo, ho visto quel video di quel meteorite che era caduto in Russia. Insomma, quello ha fatto. In realtà c'era la foto di un rover di quelli che sta su Marte, quindi probabilmente avrà avuto a che fare con la Mars. Forse sì, è un attacco da attenzione, Marte. Attenzione, meteoriti. Meteoriti. E poi sta cosa dei meteoriti, mo adesso è un po' passata di moda, però è una cosa che ciclicamente nei siti o nei titoli clickbait trovi sempre. Ricordate quando ogni tanto ve lo ricavo? Esatto. Ma ce ne sta pure. C'è altissima probabilità di impatto, vedete, il tipo il 0,3%, che però ovviamente a livello astronomico è tanto. Rispetto allo 0 è un più 0,3%, certo, in più, è altissimo rispetto al niente. Cioè, secondo. Allora, addio Google, per chi ha questi dispositivi diventa inutilizzabile, tragedia per gli utenti. Io mi sentite la tragedia? Ma no, perché io non ho quel dispositivo, per cui tu ce l'hai quel dispositivo? Io quello lì no, però sicuramente Walter ce l'ha, secondo me Walter, anche ce se poi forse gli hanno pure rimborsato, non lo so. Sì, ma nel cassetto sicuro che c'è. Cioè, sta lì, dai. Sì, sì. Quindi addio, Svalter Bano. Me ne vado alle Svalbard. Quindi? Poi? Quindi, tornando sempre nell'astrofisica, così. Scoperto un enorme asteroide, killer di pianeti, e si sta dirigendo verso la Terra. Galactus? Non lo so, è un asteroide. Per Galactus, caso è preceduto da un tizio su una tavola da surf completamente crollato. No. Però sembra che siano sicuri che abbia ucciso diversi pianeti. Questo, perché è killer di pianeti, cioè quello già c'è scritto, già lo sanno. Quindi è ancora sporco le sangue dei pianeti altrui. Insomma. Vabbè, speriamo bene, dai. Vabbè, non sapremo mai se è raggiunto la Terra. Scoperta epocale. Non sarebbero dovuto esserci lì. Animale fantastico trovato. Questo non so, forse è uno spin-off di Animali Fantastici. Non lo so. Poi un Pokémon. E dove trovarli? Animale fantastico e l'ho trovato. Non lo so, forse. Non c'ho idea. Comunque, e se sono sempre negli ultimi posti dove dice. Infatti. Poi sono sempre quelli più banali. Tanto vi dà una notizia clickbait. Nel frattempo Adblock mi sta battendo i soldi. Devi usare uBlock Origin. Ah, ok, quindi lo disarciono, lo disgrazio. Perché mi sta battendo i soldi, insomma. Vabbè, no, in realtà chiede una donazione. Ma lo fanno tutti poi. Cioè, vabbè, anche Wikipedia. Ci può stare. Vabbè, Wikipedia è proprio l'ultimo posto dove io darei dei soldi, preferisco, insomma. Che poi tra l'altro ogni anno arriva un punto, ogni anno, soprattutto Wikipedia Italia, che giustamente è quella più infamata di tutte, perché insomma è quella con grossi problemi proprio dal punto di vista gestionale anche, vabbè, e ho raccontato diverse volte di una persona nello specifico che ha un contenzioso bello aperto con Wikipedia proprio per informazioni che non, si rifiutano di aggiornare, nel senso proprio si rifiutano, non è che. Comunque, ogni tanto appare, sta scritto: ah, Wikipedia ha bisogno di voi, ah, è la fine, stiamo morendo, se non la fate è l'ultimo momento che proprio non ce la famo più, e poi restano sempre là, non è che mi pare che sia mai successo niente di trascendentale, o la gente si muove a commozione dal fatto che il messaggio è sempre drammatico, è come se io adesso vi dico: ragazzi, se non donate 50 euro ognuno, Runtime da domani non esiste più. Addio. Io penso tu. che purtroppo cioè, è l'unica maniera in cui tu rappresenteresti la fine della radio, perché non esiste. Però mi piace, perché fa molto televisione anni 70, quando finiva le trasmissioni e poi diventava facile la neve, poi e poi usciva Poltergeist. Vabbè, c'hai altre cose? Se no vado da Francesco e poi gay, allora. Ragazzi, io forse vi devo abbandonare, che devo sostituire una persona con un'altra, però. Che senso? Con me stesso lo sostituisci con un'altra, che cosa inquietante. Mamma mia, tipo un ultracorpo, cioè. Va bene, Puccio, allora no, avete presente quel simpatico incidente occorso a una mia parente qualche settimana fa? No, io non mi ricordo, però va bene, mi fido. Mia nonna che si è rotta il ferro. Ah, sì, giusto. No. No, dovrei sostituire il mio genitore. Genitore 1. Che deve andare a far partorire una paziente. Una futura genitore 2. Infatti, sì. Genitore 0 adesso. Vabbè, ma insomma, è una badante, no? Non può andare in ospedale. Ah, sta in ospedale? Sì. Ah, non ho capito ancora. Va bene, no, dai. Ho avuto, diciamo, delle simpatiche fibrillazioni cardiache. Ah, gli hai detto. Adesso no, vabbè, non volevo scherzare sulla nonna. No, perché non ti sta bene, in realtà. Meno male. Forse tossisce la settimana prossima. Ok, dai, dille di tossire comunque, mi raccomando. No, le faccio ascoltare runtime, così. Mettiamo la prova in questa voglia, calma. Come le coronarie. Pure la nonna sulla coscienza, no, dai. Figurati. Dai, Puccio. In bocca al lupo. Vabbè, ciao, ragazzi, ci sentiamo. Ciao. Allora, dai. Google. Meet cambia rotta. Stravolta l'app di Google. Gli utenti ancora non ci credono. Ah, potremmo usare quello la prossima volta. Possiamo guardare. Ma è stravolta. Stravolta, possiamo più. Sbano, tu che stai sempre aggiornato, che in che maniera l'hanno stravolto sto Meet? Proprio stravolta. Cioè, non c'è un'altra definizione. Proprio stravolta. Non sapresti come dirlo come meglio. Proprio stravoltissima. Proprio, sai, come quando ti pettini con le micette, uguale. Senti, come si chiama l'adblock che devo mettere? U-block Origin. Ok, mo lo cerco, eh. Che quello non te chiede i sorti, ti leva direttamente dal conto, cioè, tranquillo. Esatto, no. Vabbè, comunque, Marco, vai. Scienziati ossessionati da lei. La strana scoperta che spaventa tutti. Che tra l'altro non sappiamo cosa sia, ma per noi va bene. Tra l'altro, avete visto il nostro amico che ogni tanto ci viene a ritrovare, no? Roberto lì, che praticamente ha linkato un articolo di Open Online. Adesso lo sto cercando di. Che domani gli USA faranno ufficialmente una comunicazione che cambierà tutto. Ma hanno invaso più la Svizzera, vi ricordate? No, che dovevamo invadere la Svizzera insieme alla Germania? No, era qualcosa che c'ha a che fare con la fusione nucleare. Sì, perché per la prima volta siano riusciti a scatenare una reazione a freddo nucleare in cui freddo si produce più energia di quella che è stata necessaria per innescarla. Si chiama fusione. Mi confondo sempre. Ma non c'erano usciti i cinesi prima, scusa? No, questo però ha generato il 125% di energia, cioè praticamente il 25% di energia in più rispetto a quella che è stata utilizzata. Sì. Quindi teoricamente. No, la differenza rispetto a quello cinese è che non ci sono state vittime cinesi sacrificate. Vabbè, questo non lo puoi dire. In realtà ci sono stati. Perché ricordavo che erano gli americani quelli che facevano i test nucleari. Ci sono stati, però, perché fuori da questo centro americano hanno sgozzato dei cinesi perché. Per sacrificio, ovviamente, per propiziatorio, esatto, per propiziarsi le divinità apposite. Vabbò. L'ultima notizia allarmante. Che adesso è allarmante, se no. Questo è molto allarmante. Obbligo auto: hai 15 giorni per metterti in regola. Senza questo foglio, ti fanno 3.500 euro di multa. Cos'è l'assicurazione? Non lo so, immagino. Però se non c'è quel foglio, non si può mica cliccare su queste cliccare. Assolutamente. Possiamo ipotizzare, no? 15 giorni potrebbe essere un foglio di via. No, 15 giorni è più, cioè, secondo me, dopo la scadenza. Famoso scoperto di 15 giorni dopo la. Che poi non è scoperto, nel senso che comunque c'hai 15 giorni di tempo per pagare l'assicurazione. Se no penso che sì, la multa è ignorante comunque, quindi potrebbe anche essere quello, dai. Però c'ho un coccodrillo pure qui, attenzione. No, chi è morto? È morto, so, però c'è scritto, incredibile, attenzione, è morto. Attenzione, c'ho un coccodrillo, sempre in queste notizie allarmanti. Sì. Addio Sofia Loren. Sembra non si possa fare nulla. Non resta che attendere. Cioè, quindi l'hanno coccodrillata prima che morisse? No, stanno dicendo che dobbiamo aspettare che muore perché non si può fare niente. Però, però c'è anche, riesco a leggere le prime due righe dall'anteprima che dice: Sofia Loren dice addio a tutti con sofferenza. Le incredibili levitazioni. Le incredibili levitazioni? Levitazioni, puntini, puntini. Quindi non lo so. E niente, adesso tocca a capire che cosa è successo. Ma niente, che forse avrà detto che non recita più, sai, quelle frasi che poi vengono prese. Ha 150 anni, che vuole recitare, scusa. Ah, beh, voglio dire. Tu c'hai altro, Walter, così andiamo, chiudiamo con Francesco. No, sai, ho chiuso con la mia rubrichetta sulle pirlonle, quindi. Occhio che quello deve guadagnare, quindi insomma, non lo facciamo fare a spasso. Soprattutto, ti ripeto, adesso che è stato condannato, quindi ha perso, poi magari domani lo dico alle orazioni, però insomma è stato condannato a risarcire 30.000 euro ad un'associazione LGBTQ+, quindi sai come quindi, si quindi ma, cioè, questa sua attività imprenditoriale parte subito in deficit praticamente. Si vince e si perde sui grandi numeri, si fa, si vince e si perde, ecco. Francesco, chiudiamo con questa. Io già mi sono inserito in qualche brutto, già sto in qualche gruppo e già sto discutendo con gente che praticamente sto gruppo Novax, Riccardo eccetera eccetera, qua è uscita la notizia che mo da domani 13 dicembre 2022 è abolito per legge il Green Pass negli ospedali e NRSA. Tutti qua, ah, grazie, che bello, c'è sta merda. E uno ha detto, però che schifo, praticamente che qui in Italia abbiamo fatto solo per allinearci all'Europa, se no, se volevano gli italiani continuavano sempre. Io ho detto, ah, vuol dire che l'Europa ha fatto qualcosa di buono una volta, sì. E lui mi ha risposto, a iniziare la giurisdizione e tribunale. L'Italia ha accettato questo schifo con troppa facilità, non si direbbe, ma gli italiani a grandi linee hanno molta fiducia nelle istituzioni e preferiscono iniettarsi un veleno al posto di spendere 15 euro cagati per un tampone. Io ho scritto, ma non capirò mai sta cosa, eppure gli effetti sono evidenti a tutti, mi sta rispondendo. Bello, bello, ti sei inserito, bravo. Quindi di questo vedremo i risultati, insomma, la prossima settimana. Sì, ma faccio sperimentazione, ci sarà letteratura. Esatto. Sì, magari dirò pure, ragazzi, ma potete dare qualche altro gruppo, queste cose qua, e vediamo che. Oppure di ad ascoltare Antemedia. No, vorrò arrivare a fare questo, ragazzi, però comunque c'è una radio che. Che parla Napoli, non ce lo dicono, ma non ce la vogliono far sentire, in cui dall'inizio alla pandemia. No, così li mandi su Radio, state buono. Infatti, che già ci vanno sicuramente. Esatto. Va bene, ragazzi. Chi li nega? Ha scritto chi li nega, ma chi li nega è solamente un vigliacco infame. Cioè, gli effetti che ho detto che li vedono tutti. Bellissimo, stupenda sta cosa. Un mo me lo porta in privata a scrivere questo. Poi quello da cominciare a fare i vocali, quindi se abbiamo materiale va la prossima settimana. Va bene, dai, io ringrazio e saluto Marco Gualdi. Ciao e ringrazio le notizie allarmanti. Esatto. Di Google, ovviamente. Tu lo stai leggendo, ma questo ti cambierà la vita, giustamente. Ma prima che sia troppo tardi. Esatto. C'è sempre la minaccia che. È vero, hai ragione. Walter Sbano. E io vi saluto ed è la cosa migliore che vi succederà oggi. Esatto, e vi ricordo domani sera, quindi martedì, mercoledì, giovedì sera, alle ore 20, le orazioni della sera, sempre live su runtimeradio.it. E invece salutiamo anche Francesco Di Muro. Ciao, scusate se sono stato poco per cercare di fare questa cosa sperimentale. Ma sto raccogliendo materia, sto seminando discordie. E invece Francesco Di Muro che fa le sue live streaming su lobby frontali su Instagram. Sta settimana niente. Non t'annava, troppo entusiasmo dopo. No, sta settimana ho detto io niente, fammi arrapusano poco, basta. Ma sì, ti sei stancato, giustamente. Ho fatto 5 live. No, però interessante, devo dire che alcune l'ho seguite, alcune purtroppo non riesco, perché devo dire che Instagram è veramente fa cagare. Scomodo, ma pure a starlo a guardare, cioè nel senso. Sì, molto. È una cosa particolare, cioè ti do Twitch, fallo su Twitch. Vabbè, comunque, detto questo, io vi saluto a tutti, vi ricordo insomma che poi durante questa settimana c'è anche giovedì sera, quando eravamo Futuro, dedicato chiaramente a ai Giochi Senza Frontiere. Fra due settimane ci sarà invece un altro bello speciale, sempre Quando Eravamo Futuro. E invece Runtime by Night questa settimana non andrà venerdì, ma andrà di sabato. Ve lo dico subito perché purtroppo venerdì abbiamo un impegno. Quindi vediamo chi c'è tra i conduttori, tra i conducenti e tra il pubblico che ascolta, però sarà una puntata carina dedicata al Natale, nel senso che cioè, la trasmissione ti fa capire che eppure stanno, a fine ci tocca il Natale, insomma, e mi piacerebbe raccontare la peggior notte di Natale che vi ricordate nella vostra vita, cioè una cosa che proprio quanto è stato brutta qua, porta lì, proprio terribile, insomma, io ce n'ho due o tre, devo dire. Che capita, insomma, che io ce n'ho due o tre, beh, decenti. E allora tu vai controcorrente, come giustamente sì, racconta quello che cazzo ti pare, tanto alla fine è così che funziona Runtime by Night. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Ciao.